Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Le donne nel rock hanno avuto un ruolo sicuramente importante e sicuramente particolare. Molte volte alle donne nel rock sono state imputate crisi nelle band, scioglimenti, pensate a Yoko Ono, e a volte addirittura nel caso di prematura dipartita della rockstar si è andati a cercare quali fossero i danni combinati dalla sua donna o da sua moglie. Qui abbiamo una donna nel rock, a sua volta selvaggia rockstar, attrice di successo, una di quelle che fin da bambine erano state delle contestatrici, delle ribelli, che hanno trovato compagnia nel rock ma soprattutto nelle droghe, diciamo compagnia e via di fuga. Insomma, questa vedova di una grande rockstar nasce il 9 luglio 64 a San Francisco in California, e il padre è un associato dei Grateful Dead, la madre è una terapista e i genitori sono una coppia alternativa che vivono in una comune, che hanno una vita fuori dalle righe. Il padre fa uso di droghe psichedeliche, insomma una vita probabilmente non particolarmente compatibile col mondo civile e neanche col matrimonio, perché il matrimonio dei genitori di questa rockstar finisce subito. Tutto questo insomma la proietta la nostra protagonista nel mondo del dissenso, della disperazione e quindi alla fine del rock. Insomma, stiamo parlando di Courtney Michelle Harrison, o meglio Courtney Love. Sono cresciuta nel bel mezzo di un lungo processo di custodia e i giornali di San Francisco mi definivano la bambina dell'acido. Ed era un bel affare perché i miei nonni erano molto benestanti. Lo abbiamo detto, genitori che divorziano quando lei ha 5 anni e viene data in adozione a uno zio. Scattano le lotte per la custodia, emerge la notizia che il padre le aveva fatto provare un acido quando aveva 3 anni, cosa che lui nega. Intanto la madre si risposa, il nuovo marito la adotta e tutti si trasferiscono in Oregon. La famiglia si allarga. Quando Courtney ha 7 anni anche questa coppia va in crisi, la madre divorzia un'altra volta e lei inizia a avere problemi con le sorelle, insomma una rabbia che sta emergendo. Si trasferiscono di nuovo tutti in Nuova Zelanda perché la madre spera in una nuova vita e Courtney viene lasciata a una famiglia di amici. Ha solo 8 anni e questa decisione viene vista dalla piccola come un tradimento, e dopo qualche anno lei va a vivere col suo patrigno Frank, con cui aveva avuto sempre buoni rapporti. Si adatta a questa nuova vita, studia arte, recitazione, inizia a interessarsi alla musica. Una amica le dice: perché non organizziamo una band di sole ragazze? E creano una di queste band che si chiama Le Galaxy. Sui suoi diari scrive quasi ogni giorno che il suo desiderio è quello di diventare famosa, perché pensa che il successo possa essere la chiave per risolvere tutti i problemi. Nel frattempo anche con il padre Frank le cose non vanno bene, col patrigno, che lui si risposa, la convivenza con la nuova moglie è faticosa. Insomma, lei continua a covare della rabbia perché si sente persa, abbandonata da genitori, da patrigni. È un'adolescente difficile. Alla fine, quando ruba una maglietta, viene spedita in riformatorio. Il circolo vizioso di autodistruzione è difficile da superare. Lei ci prova attraverso il rock and roll, conosce un amico in riformatorio, crea una band che si chiama Pretenders, che non sono i Pretenders, quelli di Chrissy Hynde naturalmente. Intanto scrive nel suo diario che vorrebbe fare l'attrice, prova diverse droghe. Sono gli anni in cui di droga ne gira parecchia, e racconterà anche lei che tutti le dicono di provare. Insomma, è un momento in cui la diffusione della droga fa parte quasi della vita comune di quei giovani di quegli anni. Insomma, la pressione è molto alta. In infanzia turbolenta, 3 anni di riformatorio. Insomma, Corny è veramente ancora più alienata di prima. A 16 anni fa la spogliarellista nei night club e comincia a incontrare gente, amici occasionali, ai quali lei racconta un sacco di frottole. Inizia a viaggiare, gira il mondo e inizia a presentarsi alla gente come Courtney Love. Si inventa un nuovo nome. Va in Giappone, va in Irlanda, va a Liverpool, vive con un musicista per un po' di tempo, Julian Cope, si finanzia con i soldi che le ha dato la nonna e con i suoi guadagni da spogliarellista. Poi il rapporto finisce con Julian Cope e lei torna in America, a Los Angeles incontra una ragazza che diventa una sua amica, Jennifer Lynch. Insieme a lei, fotografa e musicista, appassionata di punk rock e di droghe, insieme a una sua vecchia amica, Kat Billand, crea un'altra band punk tutta al femminile, le Sugar Baby Doll. Siamo nell'85, questa è una loro demo. Insomma, non stiamo parlando di virtuosi della musica, l'energia c'è e il trio appare sul palco in baby doll con trucco pesante, capelli spettinati, grandi ambizioni, grande energia, ma anche tante droghe, forse troppe, compreso lo speed. E poi lei passa all'eroina e spesso invece di cantare parla, biascica, insomma alla fine il gruppo si scioglie. Poi la Lynch, la sua amica, diventerà bassista degli L7, un altro gruppo alternative rock al femminile, e lei si ritrova da sola un'altra volta, però è ambiziosa, deve ricominciare da capo. Nell'86 a Los Angeles va a un'audizione per il film Sid & Nancy, la storia, ne abbiamo parlato anche noi, dei più famosi sfortunati amanti del punk, il bassista dei Sex Pistols Sid Vicious e la sua amante Nancy Spungen. Entra in studio con una collana di perle, gli occhi truccati, con una chioma bionda spettinata e inizia l'audizione. Hello. Do you know what? You should pick me for Nancy. I mean, there's nobody else. I'm not gonna leave you alone. You should create one of the greatest artists of this generation, me. Il regista Alex Fox, appena la vede, capisce che lei può funzionare, le dà una piccola parte perché lei ha presenza scenica, è esattamente quello che lui cercava per quel tipo di film. L'anno dopo la scrittura ancora per un altro suo film che si chiama Diritti all'Inferno. In realtà nessuno delle due pellicole ha successo, ma la sua carriera d'attrice inizia qui. Il falco e il gabbiano. Siamo a Los Angeles, è il 1989, Courtney Love ha iniziato delle sporadiche apparizioni nel cinema, però vuole continuare a prendere in mano il suo destino attraverso la musica. Si migliora come chitarrista e fonda un'altra band, le Hole, con Eric Erlandson. Lui aveva risposto a un annuncio pubblicato da Courtney su una rivista del settore: voglio creare una band, le mie influenze sono Big Black, Sonic Youth e Fleetwood Mac. E loro si incontrano in un bar, iniziano a suonare insieme alla bassista Lisa Roberts e poi alla band si aggiunge il chitarrista Mike Geisbrecht e Caroline Rue alla batteria. Durante un'intervista lei spiegherà a Courtney l'origine del nome del gruppo. Hole, buco, non è quello che state pensando. Lei riprende una citazione della Medea di Euripide: c'è un buco che trafigge l'anima. In più c'è una conversazione con la madre che per lei rimane significativa, lo racconterà anche durante una delle sue tante interviste. Il nome della mia band è saltato fuori da una conversazione che ho avuto con mia madre. La gente pensa sia qualcosa di osceno, io penso sia poetico. Mia madre mi ha detto: Courtney, tu non puoi continuare a portare questo buco dentro di te solo perché hai avuto un'infanzia difficile. E mi ricordo di aver pensato: che nome meraviglioso. E questo è quello che lei dice nelle interviste, però insomma è evidente che il nome si presta a una doppia interpretazione molto funzionale al progetto. Infatti le Hole diventano in breve protagoniste della scena musicale underground. I primi singoli di Dick Nail e Rita Girl le segnalano come astro nascente del punk, soprattutto del punk al femminile. Lei comincia a frequentare musicisti come Michael Stipe dei Ram, Bill Corgan degli Smashing Pumpkins, e nel 90 conosce, diciamo, il ben più women oriented Kurt Cobain. Siamo in un nightclub, il Satiricon a Portland. Lui è leader dei Nirvana, lei è la cantante delle Hole. Lei ha 3 anni più di lui, è bella, ribelle. Lui è un uomo vulnerabile, insomma, lo sappiamo. Insomma, lei lo ingabbia, si innamorano all'istante. La loro sarà una relazione complicata. Cobain è l'uomo destinato a cambiarle la vita, ad accendere su di lei i riflettori. Questo lei ancora non lo sa, però. E così il giorno dopo chiamai Corgan e gli dissi: sto uscendo con questo Kurt, è carino e soprattutto è molto bravo a letto. Beh, quando c'è il sentimento, insomma, questa santa donna si accompagna in Nirvana nel momento in cui, con Dave Grohl alla batteria, loro registrano Nevermind, il primo singolo Smells Like Teen Spirit, il primo grande successo. Ma è un successo anche l'album di debutto delle Hole nel 91, Pretty on the Inside. La critica inglese, per esempio, sposa il progetto. Ma la vita di coppia dei due è una vita fatta di droga, fumo e alcol. Si sposano su una spiaggia a Waikiki, nelle Hawaii, nel 92, a febbraio. Avranno una bambina, molto fortunata, perché nonostante tutti gli eccessi vissuti dalla coppia, ovviamente anche durante la gravidanza, lei nasce fortunatamente sana. Si chiama Frances Bean Cobain. Sono le 7 del mattino del 18 agosto del 92. Siamo a Los Angeles e la coppia deve pensare anche a una figlia, o almeno ci proverà. E lei è la moglie di una icona del rock alternativo e riceve una grande spinta alla sua carriera musicale. Le maggiori etichette discografiche improvvisamente cominciano a interessarsi a lei, anche la stampa, e le crea subito qualche problema questo, perché un articolo di Vanity Fair l'accusa di aver fatto uso di eroina in gravidanza. Scoppia uno scandalo e addirittura la bambina viene temporaneamente tolta a entrambi i genitori. Kurt e Courtney devono sottoporsi a una disintossicazione, devono affrontare numerosi processi prima di poter riabbracciare la loro unica figlia. E intanto, con l'abuso di droga, arriva anche la depressione, anzi si accentua la depressione di cui probabilmente Kurt soffre da sempre. E lui ha un animo talmente sensibile che non regge la realtà. L'enorme successo di Nevermind e poi dall'album In Utero del 93 lo fanno sentire a disagio. La sua vita privata è sempre più minata dalla depressione. Uno dei primi tentativi di suicidio risale al marzo del 94. Era così tanto che provavo dolore, che non me ne importava più nulla di stare nella band, di essere vivo. Ero un suicida. Semplicemente non volevo più vivere. Courtney, che ha sempre difeso suo marito anche come padre, lo ha descritto come un padre affettuoso e molto legato alla figlia, almeno quando non è fatto, lo trova spesso privo di sensi, si preoccupa sempre di più. Era una relazione davvero basata al 100% sulla fiducia. Svenne. E allora cercai di svegliarlo dandogli delle sberle, gettandogli addosso cubetti di ghiaccio. Iniziò davvero a farmi arrabbiare. Una delle prove generali di suicidio avverrà tra l'altro a Roma. E poi, ahimè, Kurt Cobain riesce nel suo intento. L'8 aprile lo trovano nella sua casa di Seattle, disteso come se stesse dormendo, ucciso da un colpo di fucile Remington in bocca. E leggerà ai fan del marito parte del messaggio che Kurt le aveva lasciato per iscritto, e poi si sfogherà davanti a loro, a chi per ricordarlo tirerà fuori una sua foto. Non ho proprio bisogno di vedere le foto di Kurt, idiota, e farò in modo che tu venga cacciato via se continui a tirarla fuori. Non sono Kurt, ma convivo con la sua merda, col suo fantasma e con sua figlia ogni giorno. Tirarla fuori è stupido e scortese, e ti farò un culo così se lo farai di nuovo. La sai una cosa? Tu non eri sposato con lui. Io lo ero. Tu non sei stato sbattuto fuori dalla band da Dave. Lui lo è stato. Vai a vedere i Foo Fighters per fare queste stronzate. Perfetto, ora noi ce ne andiamo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia della vedova di un dio del rock. Stiamo parlando di Courtney Love, vedova perché nel 94 il suo dio del rock e anche il dio di molti, Kurt Cobain, si suicida. E stiamo parlando di una regina dell'eccesso, però di una ribelle, di una contestatrice, un po' modaiola e un po' provocatrice, cantautrice, madre affettuosa e star di Hollywood. Il momento duro della perdita coincide con, capita quasi sempre, con il periodo del maggior successo discografico delle Hall. I loro temi sono legati all'identità di genere, al femminismo, allo sfruttamento sessuale. I media li seguono anche perché Courtney ormai è una celebrità. I concerti dal vivo sono spettacoli spesso sopra le righe. Nel 94 esce anche Live Through This, un album che esprime tutta la rabbia di una persona che ha subito una perdita così tragica. La risposta è ottima, in un anno questa sofferenza diventa disco di platino. E intanto, mentre Courtney è ancora in lutto per il marito, dopo 2 mesi muore per overdose anche la bassista degli Hall, Kristen Pfaff. Tra l'altro verrà sostituita da una grandissima musicista che ha fatto anche degli album solisti, si chiama Melissa Ofdermaur. Lei comunque sta toccando il fondo, è a terra, è in una toccante e esclusiva intervista con Barbara Walters arriva a dire, con la voce rotta dal pianto, di sentirsi in parte responsabile del suicidio di Kurt. Credeva di essere una persona inutile. Io gli ho detto che aveva fatto cadere la bambina e ho sbagliato a farlo. Non volevo essere cattiva sul serio, ma non ho fatto bene a dirglielo. In genere eravamo molto gentili l'uno con l'altra, ma gli ho detto al telefono: hai fatto cadere la bambina l'altro giorno. Mentre era in riabilitazione, lui ha risposto: cosa? E io: hai fatto cadere la bambina, ha sbattuto la testa. La bimba aveva un cappotto con un bel cappuccio, non le ha fatto male. Non era necessario che glielo dicessi. E credi che sia per questo che l'ha fatto? Io penso sia una delle cause principali. Beh, io penso che i rapporti belli tra uomo e donna, o tra chiunque vi piaccia, sono quelli che ti migliorano la qualità della tua vita e ti rasserenano. Non credo, insomma, che per Kurt Cobain l'incontro con Courtney Love sia stato proprio un toccasana. Nel frattempo i rapporti tra la vedova Cobain e il resto dei Nirvana diventano tesi, inizia una infinita disputa per la pubblicazione del materiale inedito e delle varie raccolte retrospettive. Poi lei si rialza, torna alla passione che ha sempre avuto, quella della recitazione diretta da Milos Forman, ricopre molto bene il ruolo di Altea, la moglie dell'editore Hustler Larry Flint, ne abbiamo anche parlato. È un film molto bello dove lei ne esce veramente bene. E lei, che da ragazzina ha fatto la spogliarellista, interpreta nella pellicola proprio la spogliarellista Altea, quindi per il film si spoglia di nuovo davanti alle telecamere. Ma non credo che questo sia stato un problema. Ecco cosa racconta nel 97. Credevo che sarebbe stato più semplice di quel che è stato. In realtà è stato abbastanza difficile. C'erano circa 40 persone lì e non è che non l'avessi mai fatto prima, ma è stato tanto tempo fa, è stato imbarazzante, ma l'ho superato. Milos Forman ha raccontato che Courtney arrivò al loro primo incontro sotto l'influenza di droghe. Stava per rifiutarle immediatamente quando capì che proprio lei sarebbe stata perfetta per il ruolo di Altea. Le propose la parte solamente sotto condizione che durante tutte le riprese non avrebbe toccato nessuna droga e che quotidianamente si sarebbe sottoposta a controlli per rilevare la presenza di droga nel sangue. Courtney convince la critica con questa sua interpretazione, ottiene addirittura la nomination ai Golden Globe per la migliore attrice non protagonista. E poi si lega sentimentalmente all'attore Edward Norton. Nel 96 è sul set di un altro film, su un personaggio che abbiamo già incontrato al Falco e il Gabbiano, Basquiat. Vi ricordate, il pittore nero, l'amico di Andy Warhol. 3 anni più tardi si ritrova sul set per la pellicola Man on the Moon, un film sul comico Andy Kaufman interpretato da Jim Carrey. Sono rimasto colpito dalle tue mosse di wrestling. Che eri rimasto colpito, me ne ero accorta. Hai avuto un'erezione enorme su una rete nazionale. No, ma no. Sì, invece. Ma dai. Lo sai per farla mosciare. Non ti sarei mica offesa. Sono qui, no? Ehi, vogliamo andare a Memphis e sposarci? Vuoi che andiamo a Memphis a sposarci? Perché Memphis? Perché Memphis è la capitale mondiale del wrestling. Salirò sopra il ring e annuncerò che sposerò la prima donna che mi batterà. Poi salirai tu e combatteremo. E io ti farò vincere. E mi farai vincere. Ti farò vincere, te lo giuro. E poi fuggiremo e ci sposeremo durante il David Letterman Show. Ok? La sua vita sentimentale rimane burrascosa. Edward Norton si mette in salvo e il cerino rimane in mano a un altro maledetto del rock, Trent Reznor dei Nine Inch Nails. E intanto nel 98 le Hall pubblicano il loro terzo album, Celebrity Skin. Oh, make me over. Anche questo brano è ancora un grande successo e scala le classifiche, ma 4 anni più tardi, nel 2002, le Hall, o gli Hall, perché in realtà c'era un uomo, ma tutti dicono le Hall, si sciolgono. È arrivato il tempo per Courtney Love di camminare da sola. Torna sul set, questa volta come protagonista cattiva nel film 24 ore, Trapped, insieme a Charlize Theron. Karen Jennings credeva di avere tutto. Ciao papà! Una bella famiglia. Mi fai la mossa con le ali dopo il decollo? A guardare e vedrai. Un marito brillante. Dottor William Jennings, il nostro ragazzo prodigio. L'ha fatto! Ma tutto. Abby, portami la biancheria che è nel cesto. Può essere spazzato via in un istante. Abby, arriva questa biancheria. Sta calma, signora Jennings. Mi chiamo Joe. Ti darò una mano in questa faccenda. Abby! Tua figlia è stata rapita 3 ore fa. Sei in un mondo nuovo, dottor Jennings. 24 ore. Portami da lei, brutto figlio. La sua vita però è sempre caotica. Nel febbraio del 2003 fa il giro del mondo la notizia del suo arresto all'aeroporto londinese di Heathrow dopo essere scesa da un volo transatlantico. È stata accusata per disturbo alla quiete pubblica, per aver messo a rischio l'aereo. È un'accusa punibile con 2 anni di detenzione. Poi viene liberata su cauzione e pochi mesi più tardi, ancora sotto i riflettori, viene arrestata a Los Angeles per uso di stupefacenti. Dopo un fermo in commissariato viene ricoverata in ospedale, cura per overdose. Non è la prima volta che l'irrequieta Courtney ha problemi con la droga, con la giustizia. Anche nel 94, l'anno della morte del marito, era già stata ricoverata per overdose, ma questa volta le cose sono ancora più serie perché è diventata dipendente dal crack. È l'ennesimo punto di caduta. E un anno dopo, nel 2004, esce il suo primo disco da solista, America's Sweetheart, ma la critica lo stronca. Lei entra e esce dalle cliniche per disintossicarsi. La figlia Frances, che nel frattempo ha 12 anni, rimane sotto la custodia della nonna paterna. Rimane indimenticabile la brutta scena in diretta TV nel 2005 durante uno show dedicato all'amica Pamela Anderson. Courtney, ovviamente sotto effetto di stupefacenti, dichiara a tutti di essere pulita e sobria da almeno un anno. Sono rimasta sobria e non ho preso droghe per un fottuto anno, quindi questi giochetti sulla droga mi hanno stufata, cretini. Courtney mi ha chiesto di invitare tutti a controllare dopo lo show. Sono pulita e sobria da più di un anno. Spero che non sia vero, perché se non sei strafatta ora, hai dei problemi. Nel 2006 pubblica la sua prima autobiografia dal titolo Dirty Blonde, The Diaries of Courtney Love. Vive in una casa a Beverly Hills dopo 3 mesi in rehab, dove scrive molte canzoni e dice di essere finalmente pulita. Le ho provate tutte. Sono stata cristiana, sono stata cattolica. Ho passato una fase New Age, sono stata un'episcopale. Ho provato Scientology. Le ho provate tutte, davvero. E per me il buddismo è il miglior percorso trascendente verso l'illuminazione. Funziona alla perfezione. Non è aggressivo. Ti siedi al tuo altare e preghi. E la cosa bella è che preghi per ciò che vuoi e lo ottieni. Insomma, dopo aver cambiato 7-8 religioni come uno cambia la giacca o un profumo, finalmente forse trova uno spiraglio e così torna a pubblicare un album delle Hole, anche se la formazione in realtà è totalmente cambiata. Nel 2010 esce Nobody's Daughter e nel 2011 partecipa alla realizzazione di un documentario It's So Hard sulla vita e la storia di Patti Schemel, la batterista delle Hole degli anni 90. Nel film vengono ripresi molti filmati originali che proprio Patti aveva girato durante il tour mondiale della band tra il 94 e il 95, a ripercorrere l'infanzia, il coming out come lesbica, l'incontro con la scena musicale di Seattle. Band Hole and you see Courtney Love, a strong woman worshipped by countless teenage girls. But take a listen and you'll know who's really in charge. Another woman, drummer Patti Schemel. Il 2014 è l'anno della riappacificazione tra la vedova di Kurt Cobain e Dave Grohl, che membro dei Nirvana come batterista, poi ha avuto insomma una carriera fantastica che dura tuttora all'apice con i Foo Fighters. I due avevano avuto un rapporto sempre tumultuoso. L'ascia di guerra viene finalmente seppellita dopo 20 anni in occasione della cerimonia dell'introduzione dei Nirvana alla Rock and Roll Hall of Fame. E Courtney in TV partecipa ad alcune serie di successo come Empire e Revenge. Raramente si fa vedere sulla scena musicale. E dichiara per la 100ª volta di non prendere più alcun tipo di droga, ma oggi forse potrebbe quasi essere vero. Oggi ha 51 anni, la figlia Frances ne ha 24, è sposata con un musicista, Isaiah Silva, però Courtney Love non è ancora nonna e lei ai giornalisti ha detto vorrei avere dei nipotini, ma non sono ancora pronta e forse non sono pronti neanche i nipotini. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto. Courtney Love in alto ha volato anche molto in basso, è caduta, è risalita, è stato un personaggio discusso e discutibile. Probabilmente, insomma, non è stata un colpo di fortuna per Kurt Cobain incontrarla, però al di là di tutto è un personaggio che qualcosa nel mondo del rock e anche del cinema ha lasciato e soprattutto ha lasciato la consapevolezza della sua dura battaglia per una vita più serena. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi e a trovarci sui miei e sui nostri social. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. I'm so happy, 'cause today